Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è una storia di mostri e cuccioli. L'altro giorno ero in fila alla cassa del supermercato dietro casa e davanti a me c'era una signora con un cucciolo di barboncino dentro al carrello. La cassiera, il commesso, la cliente che stava imbustando la sua spesa alla cassa vicina, io e le persone in fila dietro di me. Eravamo tutti quanti in adorazione di quel dolcissimo cagnolino, che poi è una cagnolina, si chiama Frida. Dalla cassa a fianco è sbucata una ragazza, in braccio un bimbo di un anno. Il bimbo e la cucciola si sono incontrati, curiosi, goffi, gentili. E per un minuto buono, le casse, la fila, il vociare sommesso, il fruscio dei sacchetti che vengono riempiti, tutto ha taciuto. Eravamo totalmente rapiti dalla spontaneità e dalla gioia di quei due cuccioli. La tenerezza era più importante della fretta, della cena, della pioggia fuori. È facile intenerirsi vedendo un bimbo e un cucciolo interagire. Rivolgersi a noi stessi con la stessa tenerezza è tutto un altro paio di maniche. Eppure quando riusciamo a farlo, quanto stiamo bene, quanta tensione svanisce, quanta prospettiva guadagniamo su cosa è davvero, davvero importante. Cosa ci porta ad essere così spietati con noi stessi? Succede quando la nostra ombra disfunzionale prende il sopravvento. La nostra ombra, un mostro spaventoso. Che sia il critico interiore, la vittima innocente, l'ansioso catastrofista, l'orfano abbandonato o qualunque altro personaggio prenda il comando in certi momenti. Ma la nostra ombra è anche un cucciolo adorabile. Quando eravamo piccoli e indifesi, per motivi validissimi, l'ombra è stato lo stratagemma che abbiamo creato per risolvere una situazione che per noi era complicata all'epoca. È stato il nostro miglior risultato possibile. Siccome squadra che vince non si cambia, ci siamo tenuti quello strumento. L'ombra ci ha salvati e allora la teniamo lì. Però quello strumento non continua ad essere vincente come adulti. E per tenere lì l'ombra ci vuole tanta energia. E magari l'ombra ci parla con una durezza spietata. Sono sicura che, come succede a me, anche il tuo dialogo interiore è zeppo di frasi che non diresti mai nemmeno al tuo peggior nemico. È la tua ombra che parla, da un passato che non è più ma che per lei è sempre presente e tenta di proteggerti. Solo che lo fa in un modo che non è più il miglior risultato possibile, non ci si avvicina nemmeno. Adesso che sei grande, puoi risolvere le situazioni in modi molto più efficaci e non hai più bisogno di attivare tutta quell'energia. Come si fa? Inizia guardando la parte di te che ancora reagisce in modo disfunzionale e te ne accorgi, ma anziché rimuoverla o condannarla come faresti normalmente, usa la stessa tenerezza che avresti guardando due cuccioli che giocano. Lo faremo insieme, in diretta, nei giovedì di febbraio con i doni dell'ombra, yoga e mitologia per scoprire i nostri tesori nascosti. Oppure con le registrazioni, se non puoi partecipare in diretta. Reminder, le iscrizioni chiudono sabato 29 gennaio e se vieni con un'amica o un amico avrete tutte e due uno sconto di 15 euro sul contributo di partecipazione. Se lunedì 27 febbraio sei in giro per il Veneto e vuoi fermarti due ore a Teolo sui Colli Euganei e vuoi partecipare a una mia lezione speciale in presenza di yoga e mitologia, rispondi a questa mail il prima possibile. So che sembra che manchi tanto tempo, ma i posti sono limitati e non c'è registrazione di recupero. Intanto ti propongo un esercizio facilissimo. Lì dove sei adesso, ma se stai guidando, aspetta di fermarti al primo semaforo rosso. Chiudi gli occhi e lascia spazio fra i denti sopra e quelli sotto. porta una mano sul torace, sullo sterno, e inizia a massaggiare con movimenti circolari il torace e lo sterno, come si fa quando vogliamo spalmare il Vicks Vaporub su un bambino con raffreddore. Continua per un po'. Ascolta le sensazioni che arrivano. Cosa percepisci? Come ti senti? Se ti va di raccontarmelo, sarò come sempre felicissima di sapere come stai. Un grande abbraccio. Laura.